16. Atelier Seneca. Bonito Bon, il re del casual, è lieto di presentare il prossimo libro di Melissa Turbo de San Bonard, Only VIP Cars Allowed. La scritta troneggiava all'entrata di una grande porta adorna di encarpi di anacorde in cashmere e colonne pandoriche. Dall'interno veniva rumore di risacca festaiola. Mentre ci avvicinavamo, ci investì una ventata di caprice impropriu bizarre désir délire sauvage violence tout surprise e altri aromi di cui i festanti erano inzuppati. Questo è l'unico posto dove il tuo Alice può avvicinare uno sconosciuto senza dare nell'occhio, disse nella mucca. Ma cosa vuol dire only VIP cards allowed? Possono entrare solo le VIP card. Merde, disse René, rivelando le sue origini francofone. Niente affatto. Il nostro amico Ficus aveva una VIP card con foto e grazie a un paio di occhiali e una perfetta mimesi facciale Baol, io entrerò senza destare sospetti e tu sarai il mio guardaspalle. Perciò comincia a guardarmele. D'accord, disse nella mucca. Andò tutto liscio. Tu e Maggior Doberman ci perquisirono con mano esperta, controllarono la VIP card e si inchinarono. René fu messo nella sala gorilla a rimpizzarsi di rognoni. Io entrai. Era una tranquilla festa di regime. Nel mio nuovo ruolo di managero mi addentrai nella folla di gerarchetti e clarette, mentre camerieri veloci come pattinatori impollinavano di champagne ogni angolo e l'orchestra suonava Love in Ibiza. Bell'ambientino. Ricordai subito ciò che diceva il mio maestro Baol. Il vero Baol non si annoia mai, tutt'al più si addormenta. Quanta saggezza nei nostri antichi testi. Mi diressi al buffet. C'erano per lo più insalate, gigantesche insalate, ove era mescolato tutto ciò che costava di più senza tener conto del risultato. Ne assaggiai una di salmone, papaya, cervelletti di cincillà, bottarga, granchio e cozze albine. Presi una quadrupla tartina e la asfaltai di caviale. Mi feci versare un flutto di fernè e considerai la situazione. Al primo tavolo vidi il padrone dell'atelier, il celebre Bonito Bon, re del casual. Era vestito nel suo stile, in modo cioè che tutto sembrava lì per caso. Era passato un foulard che si era impigliato in una camicia su cui era calata una giacca sotto la quale avevano cercato rifugio un paio di jeans della V, in fondo ai quali si era acquattato un paio di scarpe da tennis della migliore annata. In realtà, quella era la combinazione 16B delle 372 con cui il trasognato regolamentava accuratamente la sua trasandatezza. Combinazioni che erano in vendita in più di 100 città, nelle quali i negozi Bon avevano spodestato musei, orfanotrofi e monumenti nazionali. Bonito Bon sorrideva agli invitati, abbronzato, con la bellezza un po' sciupata dei cinquantenni che esagerano col tennis. Era chiaro, dal movimento di Maelstrom mondano che attirava tutti verso il suo tavolo, che lì era il centro della festa. Subito dopo, il secondo tavolo, per possanza mondana, era quello di Melissa Turbo, nota bestsellerista nonché moglie dell'industriale dell'auto Flaviano Turbo, proprietario di squadre di pallacanestro, pallamano, pallavolo e altre palle. Melissa brillava rivestita da una frana di collane di diverso spessore, composite di perlone, perline, perloidi, ovoline, nocciole, chicchi, cannolicchi, provole, emisferi, gragnuole, biglie. Sorrideva dietro a un ventaglio su cui era riprodotta la copertina del suo prossimo libro, per il quale appunto le veniva assegnato il premio. Prossimo stava per non ancora scritto. Da qualche tempo, infatti, si era deciso di premiare ogni scrittore prima dell'uscita del suo libro, con tre considerevoli vantaggi. A. Si eliminava l'ansia dell'autore. Vincerò un premio o no? E anche la tensione tra gli autori. Lo vincerà lui o io? Dato che tutti venivano premiati prima. B. Si eliminava il faticoso lavoro delle giurie e soprattutto la fatica di leggere, lato quanto mai spiacevole del lavoro di giurato, mantenendone però gli aspetti culturali precipui, quali il prestigio di essere in giuria e il pranzo finale. C. Si eliminava ogni polemica. Nessuno poteva dire «avete premiato un brutto libro», perché nessuno poteva averlo letto. Per questo, il clima tra gli addetti ai lavori era disteso e sereno, e si intrecciavano brindisi mentre la giuria, seduta a un tavolo stracolmo di rose e rosbif, chiosava l'infelice situazione delle belle lettere nel nostro paese. Buttai giù un altro fernet e presi a muovermi tra i tavoli. Ero rimasto solo per troppo tempo e già alcuni inservienti mi guardavano strano. Un VIP che non conosce nessuno non è un VIP. Al terzo tavolo vidi dei creativi pubblicitari che discutevano se Woody Allen è un buon testimonial per preservativi. Da veri creativi, quasi tutti scolpivano animaletti di mollica e sul tavolo c'era uno zoo. Al quarto tavolo c'era uno stilista annoiato con quattro modelli torvi, quattro modelle incazzate e un levriero idrofobo. Al quinto tavolo c'era un folto gruppo di intellettuali che si chiedevano se, in certi posti, un intellettuale debba esserci o non esserci. Era un tavolo che c'era sempre. Al sesto tavolo, un gerarchetto noto trafficante di armi mostrava ad alcuni stranieri eccitati un book di missili. Aprì il paginone centrale con una portaerei nuda e tutti fischiarono di libidine. Al settimo tavolo c'era un noto personaggio che aveva fondato una loggia segreta ed era stato per anni la fogna dei vizi nazionali, il bersaglio della generale indignazione e il nemico numero uno della democrazia. Adesso faceva il consulente finanziario. All'ottavo tavolo c'erano accalcati 16 direttori di giornali che parlavano con il proprietario dei loro giornali dell'eccessiva concentrazione della stampa. Al nono tavolo c'era tutto il servizio d'ordine di Spaccagli le ossa, che era diventato una scuola di barca a vela. Al decimo tavolo c'era lei. Il cuore mi si fermò, si fa per dire. La testa mi girò, davvero. Mi aggrappai alla tovaglia del buffet, facendo crollare tutto e dando luogo a un'insalata di insalate, un consorzio di mousse e una holding di macedonie. Lei era là, la donna che aveva devastato la mia vita. Era tornata. Non era lei, ma quasi, cioè l'anima di lei era là. Un baol non si sbaglia. Proprio nel momento che capii che non era lei, mi ricordai di lei e fui certo che nessun'altra come lei avrebbe potuto somigliare in quel modo a lei. Sono stato chiaro? No? E come posso? C'è lei. A quel tavolo c'era Alice Hauck, o almeno una donna somigliante in un modo impressionante ad Alice. Alice aveva stupendi lunghi capelli biondi e Alice aveva splendidi corti capelli neri. Alice aveva meravigliosi occhi azzurri e occhiali e Alice aveva splendidi occhi gialli e buona vista. Alice aveva incantevoli spalle a forma di cuore e un neo sulla spalla destra. Alice aveva splendide spalle a forma di cuore, ma non aveva il neo. Alice non fumava e Alice fumava. Alice guardava in un certo modo e anche Alice guardava in un certo modo. Così avanzai verso di lei, come su un cuscino d'aria, scostando gomiti ed epiteti. Mi sedetti al suo fianco. Vuotai il contenuto di tutti i bicchieri del tavolo e di due tavoli contigui. Poi dissi: «Mademoiselle, dato che al momento non ho in mente una frase originale per abbordarla, potrebbe essere così gentile da suggerirmela, in modo da evitarci un lungo e imbarazzante silenzio?» «Potrebbe dirmi che le ricordo qualcuno», disse lei. «Sì, qualcuno che credevo di aver perduto e ora mi sembra di aver ritrovato. Molto originale. Permetta che mi presenti, mi chiamo Melchiade Bedrosian Baol e io sono Alice, il tuo contatto. Come hai fatto a trovarmi? Veramente sei tu che hai trovato me. Balliamo? Balliamo. Ballammo».